Lontani ricordi di viaggi in estate, tra valigie e binari, la stazione sembrava una piazza in festa. Qualcuno rideva piano, qualcuno fissava il vetro. Il tempo da quel binario viaggiava e non tornava mai indietro. Com'è bello il mare, nei sogni di oggi ricordi di ieri, per rivivere quelle emozioni che il tempo non cancellerà. Com'è lontano il mare, che si perde tra le onde sulla spiaggia, come se il tempo si fosse fermato. Il castello svevo affacciato sul cielo, nel silenzio del mattino si svegliava bagnato dalla brezza del mare lì vicino. Com'è bello il mare, quando lo vedi ritorni a sognare, come leggera l'onda che ti viene a cercare. Com'è il suono del mare, che si perde tra i silenzi del mattino, come se il tempo si fosse fermato. Sotto il trabucco affacciato sul mare si muovevano le mani dei pescatori che tiravano le reti, reti piene di parole e di storie da raccontare. Il silenzio della notte con le barche dei pescatori sul mare calmo, il frangersi delle onde trasformava ogni respiro in una canzone. Com'è bello il mare, se lo ascolti da fermo, mentre sorge il sole il tempo si ferma e lo puoi ammirare. Com'è bello il mare, nei sogni di oggi ricordi di ieri, per rivivere quelle emozioni che il tempo non cancellerà. Sulla spiaggia di Rio Vivo si perdeva l'orizzonte e bastava uno sguardo per vedere l'infinito. Quando lo guardi col cuore che batte forte, è più vicina la riva, le nuvole nel cielo formano disegni d'amore. Come bello il mare, nei sogni di oggi ricordi di ieri, per rivivere quelle emozioni che il tempo non cancellerà. Passi lenti sulla sabbia che finiva tra le dita, ogni onda ripeteva una storia che non è mai finita. Com'è bello il mare! Sognare. quando lo vedi ritorni a sognare. Come bello il mare, nei sogni di oggi ricordi di ieri, per rivivere quelle emozioni che il tempo